later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, la fabbrica di polli, il quarzo degli orologi indica 4 zeri affiancati. K e Drago parlano di Parigi senza capirsi granché. Drago? Ehi! Hey. Drago? K! Mi senti? Sì! Mi vedi? No! Siamo in un sogno. Tu sei in un sogno, io no! Questo lo dici tu. Vabbè, ma sei sempre a Parigi? A Bomeuia? È un sogno un po' noioso, allora. Di solito nei sogni si va dappertutto, si cambia. Je suis parisien, Drago. E je fume les parisiennes. Cosa sono le parisienne? E sigaretta. Vabbè, ma sono sigarette svizzere, capa, le parisienne. Je sais bien. Vabbè, ma dove sei esattamente a Parigi? Je suis à Montmartre. A Montmartre? A Montmartre. Si sente strano, K. Dov'è questa Montmartre? Non sai dov'è Montmartre? Ma Montmartre, senza la A finale. Certo che lo so. E on è a Paris, On doit mettre la A au final. Ah, donc okay. C'est Montmartre. E a Montmartre on travaille avec la mail. Cosa c'entra adesso la maila? O è la mailer? La maila. Sì, ma dici maila o mailer? Perché se dici mailer non vorrei che evocassi l'indesiderabile. Ma no, no, troppo tardi, ecco che arriva. Sono Mailer Demon, il mailer più famoso dopo Norman Mailer. Anzi, forse adesso come adesso, Mailer Demon, e cioè io, è più famoso di Norman Mailer. Quindi... sono Mailer Demon, l'unico mailer più famoso di Norman Mailer. E io, Mailer Demon, al grido di... messaggio non consegnabile. Marcio trionfante verso la gloria eterna. Sono Mailer Norman Demon Alban, dei Blair. Il giorno in cui mi scarico gratuite dalla rete le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico, che ti scarichi gratuita dalla rete la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio equo non avviene. Io sono parte lesa di questa innovazione, tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo, saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. La fabbrica di polli. Hey folks, questo messaggio vi arriva dal quartier generale dei polli Hare Krishna. Pace e amore a tutti! Incredible pace e amore! Ascoltare questa voce non provoca l'abbattimento di alberi e nemmeno l'emissione di gas nocivi. Incredible gas nocivi! I polli Hare Krishna vivono in modo armonico col resto del creato, indossano vestiti compatibili con l'ambiente e ogni loro gesto nocivo viene immediatamente compensato da un gesto positivo che rimette in equilibrio l'assetto karmico del cosmo. Incredible assetto karmico and also incredible cosmo! Bene, folks, vi lascio alla vostra attività in fabbrica, ma ricordatevi che i polli Hare Krishna vivono meglio perché la natura li riconosce come amici. E quindi, che cosa aspettate a convertirvi? Incredible conversione! La conversione fa 800 euro, il controllo dell'olio fa 700 euro, la cinghia di trasmissione fa 2500 euro, totale 4000 euro e tanti saluti. Che te devo dire? E che mi guardi così? Sono le tariffe dell'ordine dei meccanici queste, io che te devo dire? Incredible fregatura and also incredible ordine dei meccanici. La fabbrica di polli. Drago. Oh. Mi senti? Sì, ti sento un po' strano, ma ti sento. Sono in un sogno, è già tanto che tu mi senti. E non ti vedo, però. Per forza, tu sei in fabbrica e io sono a Parigi. Beato te, beato te. Ma che beato te? Beato te mica tanto, Drago. La città è ostile. Ah, è ostile verso di te? Verso les italiennes charlatane. Ma io sono sicuro che tu sai mimetizzarti bene tra i francesi, no? Metti a sputare, a diventare borioso, sei a posto. E poi è un sogno, no? Ma non è così semplice, vedi, perché qui hanno occhio per i dettagli e ti scoprono subito, anche senza farti parlare. Tipo? Non so, tipo gli occhiali. I miei occhiali, ad esempio, sono da italiana charlatane, secondo i francesi che non capiscono niente. Però se uno non ha gli occhiali? Lo riconoscono dalle scarpe. Vabbè, dai, anche questa vi sa di leggenda metropolitana. Perché me l'hanno già detto in tanti che gli italiani all'estero si riconoscono dalle scarpe. E ormai le scarpe sono uguali dappertutto. Come si fa a riconoscere uno dalle scarpe? Ah, le chaussure, sei importante, draga. Sì, sì, chaussure, draga. Vabbè. I francesi sono ostili in questa versione di Parigi. Ti picchiano, se non stai attento. Ti aggrediscono sul metrò, nel bistrò, al casino? Sì, ma è solo un sogno, K. Anche se i rivoltosi delle banlieue in persona ti riempiono di botte, tu puoi anche prendertele tutte, anzi, fartene dare di più. Perché tanto ti basta decidere di far finire il sogno e i rivoltosi spariscono e tu ti ritrovi in fabbrica con me. No, no, no, no, piuttosto le botte dei rivoltosi. Non dirlo forte, lo sai che a Parigi è piena di rivoltosi, eh? È ininterrottamente dal 1789 che c'è qualcuno che si lamenta. È la tradizione. È la libertà, eh? La fraternité, hein? Égalité, hein? La fabbrica di polli! Allora, Tarek, Joao, venite qua un attimo, è il momento di ripasso di storia contemporanea, eh? Mettetevi lì, che oggi è importante. Oggi parleremo degli anni 70. Sempre degli anni 70. Tu stai zitto, Joao, certo, gli anni 70. Allora, negli anni 70 c'era sempre il cielo grigio. E tutti i viali erano sempre coperti di foglie cadute. Ma non solo in autunno, eh? Sempre, eh. In autunno, anche adesso c'è il cielo grigio e le foglie lungo i viali. Ma negli anni 70, era così anche a luglio, Che palle! Zitto tu! Lasciatemi continuare! Poi, negli anni 70, non era come adesso che se vuoi avere successo con le donne devi pensare positivo, essere divertente, farle ridere ed essere sempre di buon umore. No. Negli anni 70, giustamente, quelli che erano così erano considerati dei bamba, perché le donne preferivano i tipi tristi, quelli solitari, tormentati, noiosi, e allora io andavo bene, perché lì bastava far finta di avere dei problemi, no? Le donne volevano episcopale, e a pensarci adesso mi sembra anche assurdo, però era così veramente, per gli anni 70. Tu ti mettevi un po' da parte, no? Simulavi, non so, un attacco di panico? Iperventilavi? Arrivava una con le tette di fuori, E robe matte, Ecco, bravo. Ma per te, Tarek, sia negli anni 70, sia adesso, le galeniere sono un discorso chiuso, capito? Mi scappare! Che però, a pensarci bene, tu assomigli tutto a DJ Francesco. E guarda che DJ Francesco andava con la Jespica, Magari adesso, se ti presentiamo bene in TV, potresti anche trovare una gallinella tutta per te, È un po' l'occhio da tappa, Però puoi sempre farti operare, Che cosa succederà adesso? La deriva trash della fabbrica continuerà ad oltranza oppure ormai ha raggiunto il suo scopo? E Tarek ritroverà suo padre in un reality show e finirà a cantare con lui a Sanremo? Lo scoprirete solo sintonizzandovi lunedì a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo disomogeneo allestimento de... La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.